Il punto di Stefano Folli. Il caso del deputato del Partito Democratico che si rinchiude nel centro di Lampedusa per ottenere il trasferimento dei migranti è un altro esempio della confusione politica in cui è immersa oggi l'Italia, perché è evidente che un parlamentare viene eletto per andare in Parlamento e da lì agire per cambiare quello che è sbagliato, con le leggi, con gli interventi, con il lavoro delle commissioni. Non ha alcun senso invece fare rumore e ottenere titoli sui giornali usando la tecnica estrema e disperata di un immigrato clandestino. A chi si rivolge questo deputato? Alle autorità pubbliche, al governo, ma è lui come membro del Parlamento che deve dare gli indirizzi all'esecutivo e deve controllarne l'operato. In realtà il deputato teme di essere identificato con la casta, vorrebbe tanto farlo dimenticare, cerca di saltare il fosso ed è in questo stravolgimento di ruoli che nessuno fa più la cosa appropriata e tutti concorrono, magari in modo inconsapevole, alla crisi generale.